il disagio di un'insidia coperta. È come una renitenza a toccare le carni dell'uomo e quei poveri panni. Mansueto, docilissimo come tutti i modelli di razza, Anastasio si lasciava spostare, accomodare, ma un paio di volte le accade di cogliere in quelle membra una nuova rigidezza, in quegli occhiacci umili come un'inquieta vergogna. E per due volte essa licenziò, senza spiegazioni, il modello. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.